Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Alle 10 e 7 minuti, nuova domenica, da Stefano Gallarini comincia Il riposo del guerriero con una puntata che nasce dal trasloco. Ho fatto il trasloco da poco, a un certo punto ho dovuto riempire di nuovo l'armadio. Prima di riempirlo, siccome ho recuperato l'armadio vecchio, cioè quello che avevo nell'altra, che è un'altra casa, l'ho pulito tutto, l'ho messo tutto a posto, perché ho detto, devo rimettere le cose all'interno, non posso metterle in un posto non pulito, allora sono spolverato, poi sono arrivati gli scatoloni e mano a mano ho dovuto riempire di nuovo l'armadio. E ho cominciato a dire, questo perché ce l'ho? Questo quando l'ho messo? E questa camicia, e insomma, ho buttato via chiaramente un sacco di cose e mi sono reso conto che c'è un elemento della nostra vita che è quello quotidiano e che è il vestire, appunto, o almeno, perché c'è chi ama vestirsi meno e chi ama vestirsi di più, c'è chi ama coprirsi di più e chi ama invece esporsi di più. Sono di quelli che si coprirebbe completamente perché non amo molto espormi, ma comunque sia, c'è un fatto legato alla quotidianità che si chiama moda alla fine della fiera, no? Stile. Alla fine c'è uno stile in ognuno di noi, che poi questo stile segua o meno i dettami della moda, e questo è un altro discorso, ed è quello che cercheremo di fare oggi nel riposo del guerriero con due ospiti che hanno appena pubblicato un libro che poi vi presenterò. Quindi di questo si parla, della moda e dello stile, questa parola amata e odiata, è vero, io un po' la odio, ma perché se ne abusa, no? Moda cosa significa? E chi l'ha detta? Cioè chi è? Perché? Insomma, vorrei dettarla io, e però succede anche così, perché molta della moda nasce proprio della quotidianità delle persone che non si occupano di questo settore. Di questo parliamo nel riposo del guerriero. Vi ricordo i messaggi come sempre al 349-238-6666 e tra poco vi do il numero verde perché oggi giocheremo con Manè. Scusa. Questo è il primo indizio, infatti, del nostro gioco Manè in 24 minuti. Poi la possibilità di portarvi a casa i biglietti d'ingresso della mostra che c'è a Palazzo Ducale a Venezia, Manè Ritorno a Venezia. Dovete associare il titolo di un'opera di Manè alla canzone che avete appena ascoltato. Per prenotarvi 800 24 00 24. Questo è il numero, si giocherà intorno alle 11:45. Ma entriamo nel vivo del riposo del guerriero con una canzone che ho scelto apposta e che racconta come a volte ci si sente estranei anche se nel paese si parla la stessa lingua. Parlo di un inglese che si trova a New York. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone say. He's a hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. No matter what they say. Ecco, lui dice, alla fine dice, devi essere te stesso, non importa cosa pensi la gente, cioè devi essere così, almeno così canta Sting in Englishman in New York. E entriamo nel vivo con Stefano Sacchi e Andrea Balconi. Ciao, buona giornata. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Eccoli qua, hanno insieme scritto un libro che si intitola Moda Terapia e poi c'è un sottotitolo che è un po' pubblicitario, esiste un solo look vincente, il tuo. No, scusa, l'ho letto così, ma perché aveva un po', chi è che ha avuto questa idea del sottotitolo così? Ma l'idea è stata fondamentalmente della redazione che ha curato il testo. Era pubblicitaria, esatto, in questo senso. Sì. Invece moda terapia? Moda terapia perché abbiamo cercato di capire come la moda, che è una cosa da cui non si può prescindere, perlomeno l'abbigliamento. Siamo esseri sociali, dobbiamo coprirci, non siamo accettati in giro per strada. Beh, ma sarebbe moda anche quella, cioè anche la foglia di fico potrebbe essere moda, perché io uso il fico, un altro usa un'altra pianta. Sì, no? E la questione è bisogna vedere poi come la reazione degli altri. Perché... Vabbè, ma non importa, quello è sempre il punto, è sempre da dove si parte. In un mondo, in un paese dove invece fa molto caldo e la gente, ci sono anche i paesi, ci si copre in un altro modo. È e quindi è moda culturale. Anche usare una pianta sì, sì. Diversa. Uno usa appunto il fico perché c'è, un altro usa la palma perché lì ci sono. Le ortiche. Le ortiche fungono, però. Vabbè. Quello che ha parlato è Andrea Balconi. Sì. Stefano Sacchi, che è più nervoso. Io lo sei più nervoso tu, no? Stefano, no, ormai siamo abituati a questa routine. La routine di presentazione del libro, sì. Questo vuoi dire. È di moda anche scrivere un libro? No, non credo, o perlomeno sì, è di moda nel momento in cui non c'è nulla da dire. Noi abbiamo scritto questo libro un po' per caso, perché io lavoro tuttora nel mondo della moda, mentre Andrea l'ha lasciato da qualche anno, e condividevamo comunque una serie di concetti che spesso discutevamo al bar, davanti, sì, a un caffè, e quindi abbiamo detto: beh, mettiamoli nero su bianco e tentiamo. Così di... poi la prossima volta posso discutere, diciamo, l'abbiamo scritto. Abbiamo già scritto, ecco, non c'è più nulla da ripetere. Quindi, di fatto, questo libro è un po' un compendio di tutto quello che ci siamo detti in questi anni, in questi mesi, un po' anche basato sugli rispettivi stress, la volontà, ecco, di... Ecco, infatti io comincerei da questo, perché questa parola spaventa molto per tante ragioni, e vedremo un po' perché spaventa, o magari perché spaventa me o anche gli ascoltatori. Il riposo del guerriero. Allora, quando io sento parlare di moda, io sento moda, mi viene un po', non la pelle d'oca, ma non lo so, è una parola ormai della quale si abusa assolutamente. È di moda. Cosa significa? È di moda. Cioè... Sì, vabbè, allora diciamo che oggi come oggi un po' la globalizzazione, un po' il fatto che siamo tutti appiattiti, sì, da questi gusti imposti più che voluti, la moda viene, per quello che nel libro abbiamo scritto Chi la ama, chi la odia, viene spesso concepita e confusa con un appiattimento e un, come si può dire, una forzatura nel seguire le tendenze che ci vengono imposte. Vero. Il motivo del libro, infatti, sì, in realtà è proprio fuggire da questa questo. Trappola e di tentare, utilizzando la moda nel senso buono, per il buono che ci può dare, nel bello, nella cultura del gusto, eccetera, eccetera, di crearsi un look un po' personalizzato. Ecco, io devo dire una cosa, quando ormai, no, sono un po' di anni, quando viaggi, ma anche in giro per il mondo, non soltanto in Italia, vai a vedere il centro, no? Il centro storico, ok, e poi immancabilmente passi per le vie, tra virgolette, della moda, cioè quelle vie che hanno i negozi, più di tendenze, cioè, sono tutti uguali. Esatto. Perché sono quelle marche lì, quelle catene lì, quelle cose lì, e ti sembra di essere nello stesso posto. Tu sei dimenticato che magari sei a 3.000 km di distanza dalla tua città. Però c'è comunque una trappola anche in questo, nel senso che se è vero che ovunque tu vai ormai trovi ovunque le stesse cose e la stessa offerta che ti viene, sì, proposta, per cui assolutamente cadi in un paradosso, che è quello che talvolta, spendendo di più, comunque l'offerta è identica e hai lo stesso look spendendo il triplo. Esiste anche la trappola che, spostandosi dall'altra parte del mondo, in Giappone piuttosto che ne so, in Africa, ed volendo fare per forza gli alternativi, ti riempi la valigia di oggetti e talvolta anche di capi d'abbigliamento che sono belli là, nel luogo. Esatto, sì, ma come un piatto, spesso, esatto, è così anche per la cucina. Riportato da noi, o sei veramente abile nel mischiarli, o se no sa di ridicolo quanto mai. Quindi... Ecco, oggi la moda, è molto chiaro questo discorso, spaventa perché la parola moda dà l'idea di appiattimento, no? E poi anche io penso così, perché abbiamo quel canone lì. Questo era Stefano. Andrea invece... Tu che non lavori più in questo mondo, è perché l'hai scelto, perché ti è semplicemente capitato di avere un'offerta diversa in un'altra cosa? Perché mi stanco facilmente. Ti stanchi facilmente. Sì. Cos'è che ti ha stancato della moda? Le persone che ci lavorano. Questo si dice sempre, sarà dopo il Diavolo Veste Prada che poi... Così. Sono tutti così veramente. Adesso, nel film è molto drammatizzato, è sì, molto... Beh, un po' enfatizzato. Una macchietta. Sì, però insomma le dinamiche sono quelle. Quindi a un certo punto dici basta, me ne vado. Sì, ma è anche un c'è modo... molta competizione? Sì, c'è molta competizione, c'è molta capacità di fare quel lavoro, come c'è molta gente che occupa dei posti senza saperlo fare, perché in realtà è un lavoro molto duro, è una grande fetta dell'economia italiana, lo sappiamo, ecco, fare veramente bene. Ma come funziona? Ecco, bene, due cose, come funziona lo vediamo dopo, mi piace questo, lo sappiamo fare, cioè noi italiani sappiamo farlo veramente bene, sì, cioè sappiamo fare che cosa per quanto riguarda la moda veramente bene? E tutto, sia la manifattura che la progettazione. Del resto l'Italia è perlomeno dal Rinascimento che ma è ancora impone così la moda. Sì, è ancora così perché certe capacità progettuali, certe lavorazioni, ma anche a partire dai tessuti e dai filati, sono un po' la ricetta di famiglia, un po' come dire, sappiamo che l'economia italiana è retta molto dalle piccole imprese artigianali, e veramente ciascuna conserva delle ricette speciali per un finissaggio di un tessuto piuttosto che per una tintura. Effettivamente la concorrenza internazionale, soprattutto a basso costo, è molto alta, però fino in fondo non sono capaci di imitare il Made in Italy. Il Made in Italy è poi è fatto di tante altre cose che vanno al di là del prodotto in se stesso. Il pubblico si accorge di questa differenza, secondo voi? Ma il Made in Italy è un marchio di fabbrica con, se vogliamo, una sorta di nascita casuale data dal savoir-faire italiano, dalla tradizione millenaria dei nostri produttori, ed è l'unico caso in cui si è creato nell'immaginario collettivo una sorta di garanzia di qualità. Non esiste un Made in France, un Made in Spain, un Made in UK che in qualche maniera abbia la stessa valenza, forse solamente per l'orologeria il Made in Swiss. Cioè non esiste l'interesse da parte di compratori internazionali per un Made in che non sia Made in Italy. Per cui effettivamente è un grandissimo asset che l'Italia ha e che deve continuare a svolgere. Poi il fatto che oggi come oggi molti si spostano all'estero per questioni puramente economiche, sì, ci fa capire che forse dovremmo smetterla di lavorare solo su questioni tipicamente quantitative e spostarsi su un'analisi un po' sulla più qualità, qualitativa. Cioè nel senso che comunque oggi è inutile combattere con paesi emergenti dove il prezzo del lavoro è effettivamente più basso e non riusciremo mai, se non forse in futuro, quando loro si evolveranno e avranno delle condizioni di lavoro differenti, a essere competitivi. Per cioè, tu cui dici anche quando i lavoratori hanno i diritti, ecco, perché esatto, in molti paesi purtroppo non ne hanno, esattamente, quindi è chiaro che costa da sottolineare, meno. Esatto. E quindi dovremmo comunque ragionare in altri termini, ragionare in termini più squisitamente qualitativi che quantitativi. Non possiamo fare la guerra a questi paesi sui prezzi di produzione, ecco, assolutamente. No, poi è interessante capire, questo è chiaramente un aspetto importantissimo, è interessante capire quando la moda viene decisa, davvero, perché molti di noi, chi non lavora in questo settore, ha in mente quello che ha visto nel film, quindi capire se funziona veramente così o come si decide che quel colore sarà di moda, quella cosa sarà di moda, eccetera. Lo vedremo tra poco, intanto c'è Veronica Benini che saluto. Veronica, buona domenica. Salve, buongiorno. Veronica Benini ha scritto Tacco 12, che è un libro che insegna a usare i tacchi, perché diciamo la verità, le russe hanno portato il tacco alto, questa è la verità, nel senso che le italiane non andavano in giro con tacchi così alti, questi trampolini, e poi a un certo punto le russe hanno invece importato l'amore per il tacco molto alto. Ci sono linee infatti di scarpe molto famose, marchi molto importanti, che hanno cominciato a produrre in Italia scarpe col tacco così alto, e così il tacco è diventato davvero di moda. Posso dirlo? O mi dite di no? No, scusami, Veronica, sto chiedendo, intanto chiedo anche a te, Veronica, perché poi entriamo nel libro, ma intanto siccome ci sono, devi capire, Stefano e Andrea che mi guardano attentissimi, no? Se sto dicendo qualche castroneria, e allora è vero che è diventato molto di moda? Sì, sì, certo. Questa cosa delle russe è vera perché la so, nel senso che potrei raccontare tutta una storia, ma adesso non lo posso fare, non voglio fare pubblicità. Veronica, per te invece non è così, sei tu che hai portato il tacco di moda in Italia. No, assolutamente no. Capire veramente cosa ha mosso il fatto di questa alzata del tacco, ci sono tantissime, tantissime teorie, anche il lipstick effect, volendo. Ma scusa, non ho capito l'effetto, perché ho capito lipstick che sta per rossetto, ma credo che sia invece lipstick, giusto, effect. Ho capito giusto, sì, allora. Sì, è una teoria economica che la pronuncia anche la famosa signora, forse del film di cui state parlando, sì, Anna Wintour. Ma il lipstick effect è quello che dice che quando non hai soldi per comprarti altro, che non ti puoi comprare vestiti eccetera, ti compri un rossetto, che un rossetto, anche se è carissimo, non costa più di 30-40 euro. E la teoria tornerebbe anche con le scarpe, perché una scarpa fa tantissimo il look, così come, insomma, entriamo nel mondo degli accessori. Sì. E poi la scarpa, cambiandoti la postura, cambia anche il tuo modo proprio di sentirti, quindi ha un effetto molto più, volendo anche a livello psicologico, molto più efficace di quello di un vestito. Senti, quante secondo te hanno i tacchi alti e non li sanno portare? Direi il 60-80% delle donne. Quindi credo che sia. Qui bisogna fare una scuola, bisogna aprire un corso di giusto, di passeggiato sui tacchi. Infatti, quello che hai fatto, per quello nasce anche il libro da lì, da questo corso. E qual è la prima cosa? Dopo c'è la pubblicità, ma rimani in linea. Cos'è la prima cosa che bisogna insegnare? Beh, di solito non so se ce l'avrete presente, una cosa che se ve la racconto la capite, le donne camminano come dei piccioni, cioè muovendo la testa avanti e indietro, sono molto instabili piegando le ginocchia. La prima cosa è capire che non è una colpa non saper camminare sui tacchi, è piuttosto una nuova postura, perché non si tratta soltanto di alzare il piede, si ripercuote su tutto il corpo, il corpo reagisce nel modo che per lui è più sano o meno pericoloso, che non è di certo il più elegante. Ecco, quindi tu dici che l'insicurezza che alla fine della fiera fa sentire goffi. No, non è insicurezza, è veramente che il corpo non sa reagire a questa nuova postura. Sì, certo. E quindi non è una colpa, il corpo fa quello che è migliore per lui. Chiaro, è come me sulla tavola da snowboard, voglio dire, cioè dopo mano a mano impari, ma all'inizio ecco, sembri un cretino. Quindi reinsegnare al corpo a stare su questi tacchi, e non è assolutamente istintivo, non è naturale. Va bene, è allora che non ci riesce. Continueremo a parlarne, 349-238-6666, c'è anche la pagina di Facebook del Riposo del Guerriero, c'è la pubblicità e poi continuiamo a parlare di moda e stile. Il riposo del guerriero. Finché la priorità di pensiero sarà il tacco, le brave donnine resteranno in subordine. Così scrive Gina. Veronica. Veronica, Pronto. Eccoci. Veronica Benini. Hai sentito il messaggio di Gina? Sei arrabbiata perché dice finché la priorità del pensiero sarà il tacco, le brave donnine resteranno in subordine. Io credo che non sia questa la questione. La questione è che se una vuole mettere un tacco deve imparare a indossarlo, giusto? Assolutamente. La descrizione della Stiletto Academy, che la scuola è insegniamo alle donne a camminare sui tacchi, ma a quelli che lo desiderano. Non è che io professo il tacco per tutti, però se lo vuoi portare tanto vale che tu lo faccia con eleganza. Parlavate prima del marchio Made in Italy, sì, che la Stiletto Academy promuove, avendo solo sponsor che rispettano questa cosa. Ho dovuto rifiutare tantissimi brand, ma il Made in Italy è anche un marchio d'eleganza, cioè noi vendiamo anche questo, è molto importante. Infatti, vendiamo veramente l'eleganza, lo stile, tutto uno stile di vita, che non è soltanto il prodotto ma anche il savoir-faire e il savoir-vivre. Il problema è che è difficile rendersene conto perché lo viviamo, no? È un po' come il fatto che l'Italia è piena di tesori, viviamo tutti in città che hanno sicuramente qualcosa di straordinariamente bello e di storico, non è così in tutto il mondo e forse non ce ne rendiamo conto, quindi forse abbiamo davvero uno, dico forse perché anch'io non me ne rendo sempre conto, abbiamo uno stile che riusciamo a emanare e che però non ci rendiamo conto di possedere. È così o sto dicendo un'altra delle castronerie solite? No, che... secondo me è così, è un po' un'idée reçue, come dicono i francesi. Io ho vissuto tantissimi anni in Francia, sì, voglio dire, anche francesi hanno una grandissima qualità nella cucina, nella gastronomia, anche se non ai livelli nostri, ma insomma non hanno niente da invidiare agli italiani. Non hanno la R però, lo diciamo. No, scusami, era... Beh, la francese non è niente male, è questione di gusti. Comunque, però anche vivendo in Francia o negli Stati Uniti, a New York, tutti dicono, sei italiana, è già tantissimo. Cioè per loro il fatto di essere italiani è una sicurezza, è appunto questo bollino di non solo di qualità, perché io non produco niente per esempio, però io so vivere per loro in un modo e so pormi e so parlare, so vestirmi in un modo che pure, cioè soltanto essendo italiana per loro è un marchio di qualità. Veronica, con l'ultima domanda ti saluto, è più difficile indossare un tacco o una ballerina? Beh, le ballerine fanno molto male in realtà perché non hanno suola. io vorrei fare un annuncio che non c'entra molto con la via dei tacchi, ma con la salute, dice. Sì. Sì, fanno molto male alla salute del piede, sono le scarpe killer di quelle basse, ci sono le killer col tacco, come la décolleté classica senza plateau, fa malissimo anche quella, e fra le scarpe basse la più killer è la ballerina, perché è la più insospettabile, quindi non andrebbero messe alle bambine tutti i giorni, rovinano davvero i piedi. Grazie, quindi, grazie Veronica Benini, tacco 12 Sperling, buona domenica. Buona domenica. Ciao. Allora, Stefano, Andrea, questa cosa modello moda che ci portiamo dietro, questo schema, ce l'abbiamo davvero? Ormai ce lo portiamo dietro perché... Ma no, è vero, cioè alla fine all'estero ci invidiano un lifestyle generico, quindi cioè, la moda non è solamente l'abbigliamento, è una qualità di vita, è una dimensione molto ampia, uno spettro di attività che noi italiani sappiamo fare molto bene, e al di là dell'Italia comunque il business della moda parla da solo, cioè le Fashion Week, quindi gli appuntamenti canonici tra cui appunto il Pitti, la settimana della moda di Milano, quella di Parigi, Londra, avvengono solo in determinati contesti, in determinati territori che sono tutti concentrati in Europa. Poi non è detto che i paesi dove questi vengano in qualche maniera organizzati siano anche i fruitori maggiori di moda, nel senso che abbiamo tantissimi buyer internazionali che vengono in Italia ad acquistare, a vedere le collezioni, e poi in realtà il paese Italia, così come la Francia, non sono poi i maggiori paesi dove economicamente parlando il business si sta sviluppando, purtroppo. Come funziona quando qualcosa deve diventare di moda? Cioè, veramente, com'è che scatta quel... Secondo me la produzione deve partire molto molto prima, non è che parta il giorno prima, ma parte un anno prima, credo, minimo 6 mesi. A volte è la casualità, trendsetter. Tipo? Come funziona? È complicatissimo. Lo so, immagino, però sono curioso, modi. Voglio capire. Per semplificare, se torniamo indietro nel tempo, sì. La moda la dettava il sovrano. E quindi è più facile. Esatto, sempre per sintetizzare, in seguito con la nascita dei primi couturier, erano loro a dire cosa andava di moda, cosa non andava di moda, e tutti gli altri via via a copiare. Cioè semplicemente si svegliavano e decidevano qualcosa. Più o meno, okay, anche sì. Perché non c'era una ricerca. Più che ricerca era anche un po' lo spirito del tempo, sì. Che è una cosa che influenza ancora molto oggi. Non so, un periodo di crisi stimola la produzione di certi capi e meno di altri. Si dice che le gonne si accorciano, si allungano in base anche a questo. Non lo sapevo. Sì, è statistico. La presenza di guerre nel mondo, per esempio, favorisce molto il nascere di uno stile un po' militaresco, per cui colori, mimetiche, tagli, cappotti, eccetera. Tornando a come succede oggi, sempre per fare un discorso molto generico, sono sempre tantissimi fattori. Uno è una continuità di quello che si sta già facendo, e quella è la base. Possono esserci istanze culturali tipo film o musicisti, cantanti che si impongono in qualche modo, e in qualche modo anche loro influenzano. Qualche marchio che è particolarmente di moda in quel momento, in qualche maniera fa sì che gli altri guardino adesso e quindi ne traggano qualcosa. Ancora la strada, perlomeno dagli anni 80 è la strada che ecco ispira. Infatti poi sposteremo un po' proprio su questo, perché poi la natura del vostro libro è proprio questa, cioè crearsi uno stile personale, certo. Quindi non dipendere dalla divisa, chiamiamola così, propri panni. Che non è sempre facile, perché uno si sente un po' fuori dal mondo, no? Quindi bisogna anche avere un certo tipo di personalità, penso, per riuscire a guardarsi allo specchio e dire non faccio parte della divisa. Se si ha una personalità si può cercare una tecnica, perlomeno qualche trucco. E questo è interessante. Scrive, conosco carovane di ragazze, Giulio di Treviso, dice: conosco carovane addirittura di ragazzi che con la moda dei voli low cost con 50 euro vanno a Londra a fare shopping e trovare il diverso, ecco, che poi vediamo se lo trovano veramente a Camden Town, probabilmente, non lo so se è ancora lì il fulcro. Ilario Citton, buona domenica. Buongiorno Stefano, buongiorno a tutti. Allora, abbiamo un club, si chiama Le Cercle, dico bene, alla francese? Sì, Le Cercle. Ma cosa c'entra se il nome è francese, se si parte dalla figura di James Bond, che è inglese? Beh, il nome Le Cercle ha un'origine inglese, inglese perché il nome lo coniò Ian Lancaster Fleming, era il suo club, un club privato di amici. Sì. si trovavano a giocare a carte, a fumare, insomma a condividere i piaceri della vita, e da lì le circle. E poi, tra l'altro, Stefano, ti posso dire che si vede il nome Le Circle anche sul primo film di James Bond, Dr. No. Ah, ecco, che io non mi ricordo neanche. Sì, nelle prime pagine del film. Senti, Ilario, allora voi cosa promuovete? La figura di James Bond, ma non quella dell'agente segreto, cioè non è che andate in giro a fare no, no. Ma il gusto inglese. Ma il gusto inglese oggi è ancora la bombetta e la 24 ore, quello dell'uomo della City, o non c'entra assolutamente più allora, niente? In verità la bombetta e l'ombrello ci sono ancora, molto meno di qualche tempo fa, Anche gli inglesi diciamo che si sono abbastanza globalizzati, anche se devo dire la verità che il mondo inglese ha mantenuto e ha conservato nel tempo le proprie tradizioni, a differenza di noi italiani o di altre nazioni europee. Gli inglesi tengono molto alla propria nazionalità, sono patrioti. Diciamo che noi come Le Circle abbiamo preso spunto dal loro stile, ma perché ovviamente la figura di James Bond, essendo inglese, ci ritroviamo diciamo nella figura di Bond, ma non solo per l'abbigliamento, per le auto guidate, per i bei alberghi che frequenta nei suoi film, sì, anche perché, ma proprio per una filosofia, per uno stato mentale, voglio capire qual è lo stato, ma lo stato mentale cos'è? Una donna in ogni posto che poi no, assolutamente, è riuscire ad avvicinarci a quello stile di vita, a quel piacere di vivere. Comunque, per esempio, come ieri a Lago di Garda, di andare a guidare un motoscafo Frauscher a tutta velocità e di vivere la stessa adrenalina che James Bond prova nei suoi film. Ecco, ma e loro per voi siete un club? Ecco, voglio dire, mi iscrivo al vostro club, sì. E poi domani andiamo a fare un giro sul motoscafo, ma date voi il motoscafo, io non ce l'ho. Il motoscafo, certamente, ma noi cerchiamo tutte quelle cose che possono essere l'eccellenza. No, sorrido, quindi mettete a disposizione, diciamo così, gli strumenti per poter vivere anche un'ora, un giorno alla certo. James Bond. Questo certamente, è interessante. Che può essere, ripeto, il motoscafo, ma può anche essere giocare a golf, come in Goldfinger. Oppure anche fumare un buon sigaro cubano in una cena come Roger Moore in Live and Let Die, per esempio. Tutte quelle cose che, ripeto, sono comunque collegate al piacere della vita e al young vivre. Ma avete anche voi il Dottor Q e Mr. Q e Odd Job che lancia la bombetta che taglia il collo, oppure evitate queste? No, assolutamente no. Noi ci definiamo un movimento culturale. Io comunque con voi giocare a golf non vengo, che tanto spostate le palline, le avvicinate alla buca, io lo so come l'ho visto oppure, il film. Oppure teniamo fuori il lingotto d'oro, ti ricordi, no? Ma avete anche l'auto tutta d'oro, anche voi? No. Il programma c'è, penso, a luglio. Una prova su pista della Aston Martin DBS, quella vista in Casino Royale. Ma quando? Dov'è che lo fate? Che veniamo a vedervi sicuramente. Beh, sarei il benvenuto, insomma. Ma dove lo fate? Dove lo fate? Ma allora, stiamo definendo tramite un nostro amico del nostro club su un circuito vicino a Cremona, quindi in Lombardia, quindi un posto facilmente raggiungibile, con un istruttore ovviamente, con tutto, ma lì sarà proprio bello perché guidare un Aston Martin DBS in pista a tutta velocità ci farà sentire come in Casino Royale. È vero, e poi giocheremo anche a poker. Ilario Citton, ti ringrazio, e così, insomma, questo gusto di ripercorrere alcuni elementi dei film di James Bond e riviverli, devo dire che è qualcosa che ha molto a che fare con stile, con il gusto, perché anche quelle cose venivano studiate a tavolino per rendere forte il personaggio. Bravi. Grazie, Ilario, Stefano. Mi dici il sito internet dove è possibile contattarvi? Sì, il nostro blog è James Bond webitalia.wordpress.com e lì si trova tutto quello che organizziamo, c'è la nostra filosofia, ci sono i nostri podcast, perché facciamo anche un programma radiofonico dedicato a James Bond, sì. Quindi la nostra redazione. Posso salutare al volo tutti i tantissimi amici italiani. Certo, ecco, salutiamo anche Molly Penny, tutti. Ecco, e così siamo a posto. Ecco. Ciao, grazie, ciao. Poi grazie, se non avete Stefano, capito, ciao, il nome del sito c'è, andate sul Riposo del Guerriero sulla pagina e lo troverete. Andrea, Stefano, quali sono gli elementi di James Bond, visto che siamo in tema Kevin? Poi torniamo a Londra, che vi piacciono. Andrea mi ha guardato e fa, io non so niente, non so chi sia James Bond. Esatto, non so chi è, ma non... Basta, ecco, tu invece... Non so se non hai visto un film, ti sei perso qualcosa, però andrò a vederli. Sì, adesso non dopo è che tutto questo discorso, no, ci sono degli elementi molto interessanti, non lo so. Beh, è uno specchio che in realtà non penso appartenga a molti, o perlomeno sì, appartiene ad un immaginario collettivo in cui ciascuno di noi vorrebbe collocarsi, come Sì. la villa in Sardegna o appunto la vita sulla Costa Smeralda. Trovo comunque che sia interessante quello che il nostro amico ci ha prospettato, perché comunque è un desiderio comune a molti, quindi è Cioè una dici parentesi vivere almeno, esatto, artificiale, vivere almeno quella purtroppo. cosa Sì, lì, è un giorno da una James Bond, parentesi no? artificiale, ma comunque è sicuramente piacevole. Ecco, torniamo invece a Londra, appunto, il gusto della moda di Londra, che per me di gusto non ne ha mai avuto, lo dico subito, dalle Dr. Martens, poi io proprio, cioè è un mondo che a me non è mai piaciuto, anche se negli anni 80, 90 è stato molto importato a Milano soprattutto, ma in generale in Italia. Oggi come stanno le cose? Cioè loro infatti dettavano moda da quel punto di vista, i punk, cioè, Sì, beh, poi su questo Andrea è molto più lo afferrato di me, vedo che... però ci sono due tendenze Sì. completamente diverse forse da sottolineare. Da un lato il fatto che Londra e l'Inghilterra, con la moda intesa come business, insomma, non sono esattamente le località per eccellenza da considerare, mentre sono sempre state e saranno sempre le fucine della ricerca di tendenze, quindi ti Quindi faccio. noi poi vediamo un po' e poi Sì, così rivestiamo esatto. Rivestiamo all'italiana. all'italiana quelle che sono le tendenze punk. Beh, Andrea ha lavorato per un marchio importantissimo inglese, quindi sa meglio di me come queste cose avvengano. Però effettivamente il mondo punk, il mondo alternativo inglese è sempre stato particolarmente considerato, ma non solamente la tendenza punk, credo anche una tendenza proprio vittoriana o comunque molto classica, da cui anche il signore che ha appena parlato poteva prendere spunto. Andrea. Sì, è vero, l'Inghilterra ha una grossa tradizione sartoriale, soprattutto maschile, quindi tutti gli atelier di Savile Row che ci sono ancora, nei quali i noti stilisti che poi diventano distruttivi nei confronti del classico, perché quello sembra essere un po' il movimento inglese, no? Quello di partire da basi molto solide, molto classiche, molto ben costruite, per poi stravolgerlo. E praticamente la maggior parte dei marchi inglesi, parliamo di moda o di alta moda, quindi non streetwear, queste cose, in realtà decostruiscono qualcosa che è veramente molto classico, per cui forse appunto sull'ondata del punk che è stato creato dalla società inglese, molto l'ha influita, non è stato un branco di pazzi che una mattina hanno iniziato a mettersi le spille in bocca e vestirsi con le borchie e i capelli in piedi. È proprio un aspetto, credo, della cultura nord europea, in particolare inglese. E questo binomio, classico e distruttivo, comunque, una ricerca da quel punto di vista su una struttura molto solida, molto classica, molto forte, quella dell'Inghilterra colonialista per intenderci, nonché appunto tutte le influenze, anche il cosmopolitismo di una città come Londra, creano effettivamente un ambiente ideale per inventare qualcosa di nuovo. Giustamente Stefano dice è una fucina di inventori di cose che hanno un ristretto giro di affari perché effettivamente sono molto forti, ma che un paese come l'Italia è in grado di trasformare, semplificare, rendere più o meno la stessa cosa un po' per tutti, Dagli un un po' po' più più di gusto da portabile, questo punto di esatto. vista, quindi fanno bene le ragazze, questa orda di ragazze che vanno a fare Sì, il ma viaggio c'è verso poco di Londra. genuino oramai, anche Ormai lì, Camden beh, Town, questi questo posti che citavi immagino tu di sì, prima, sai, quando il business chiama e tutti chiama, arrivano. è proprio così. Il riposo del guerriero. Ringrazio gli ascoltatori perché sono arrivate delle domande, delle considerazioni che mi stanno dando tantissimi spunti per porre le questioni ad Andrea e a Stefano. Allora io comincio da questa. Avrei milioni di domande, mi vengono in mente, ma poi un po' ci perdiamo. Le questioni sono tante. Secondo me, scrive Roberto, nella stragrande maggioranza la nostra moda non è più un granché elegante. Troppi arabi, russi, americani. E c'è un po' del baracconismo, ecco, in giro. C'è Stefano che ride su questo. Beh, no, nel senso che comunque io lavoro nella moda da tanti anni, però anche questo libro che abbiamo scritto con Andrea è una visione un po' disincantata del mondo della moda, dove io credo che non non si inventerà più niente. Cioè non possiamo fare tanto. Ma perché ormai sei diventato vecchio anche tu, guarda, darsi, è così. Cioè, quando darsi. Si arriva a una certa età si dice non si inventa più niente, non è vero. Ma sì, perché comunque alla fine non si sta già inventando. Anche io dico sempre come te, più per nulla. Quello. Nel senso che si stanno riprendendo dei canoni estetici degli anni Ottanta, sì. Di cui tutti hanno vergogna perché ci si ricorda come ci vestivamo, però gli anni Ottanta sono gli anni migliori del mondo, cioè che ci sono stati in questo secolo, musicalmente, culturalmente, sotto qualsiasi profilo. Quindi secondo me, in ogni caso, tante tendenze è logico che si ripetano in continuazione. Quindi siamo ancora qui a ricopiare degli stilemi dagli anni 70, dagli anni 80, si ripropongono ovviamente su delle forme un pochino più moderne, più contemporanee, degli abiti che potremmo avere nel guardaroba dei nostri genitori. Per cui nel nostro libro diciamo createvi il vostro look, utilizzate anche ciò che di fatto avete anche nell'armadio, portate con orgoglio anche dei capi che sono appartenuti ai vostri genitori, semplicemente riadattandoli e creando un'immagine che comunque è più adatta a voi, alla vostra fisicità, e che vi rende anche più interessanti. Ecco, se sono appartenuti a me come genitore, per esempio, vanno male perché ho buttato via tutto, per cui vedi, non... Questo è un grande errore, bisogna avere anche spazio. Hai ragione, infatti . Sai che ci sono queste nuove professioni, sì, di queste consultant, fashion consultant, che vengono da te a pagamento e ti rifanno lo faccio domani. Fashion consultant, scusate, perché poi ci sono dei mestieri che a me fanno un po' ridere. Io, con tutto il rispetto per, certo, chi lo fa, ma guarda, cioè, che anche noi ne siamo venuti a conoscenza dopo aver dal personal shopper, che io, cioè, no, cioè personal shopper, proprio che va per te a comprarti la roba, va bene, però è così un po' come l'architetto che ti rifà la casa col suo gusto senza interpellarti se è fatto male, se è fatto bene, senza invece andare troppo lontano. Sono dei bei consigli. Mi viene anche un po' da ridere, c'è una Carmen che scrive: i rossetti economici a 30-40 euro, ma dove vive? In effetti, quando ha detto così, se un rossetto. No, credo che il discorso della collega di prima, sì, fosse sul fatto che appunto si basta una cosa per ridare marchio lì, slancio a tutto il resto. Marchione inarrivabile. Sì. Non me lo posso concedere. Dello stesso marchio, però, se compro un rossetto o un paio di occhiali da sole, con 40 euro per il rossetto, 200 per gli occhiali è da come sole, se avessi indosso comprato quel marchio lì. Ecco, ma difatti, la maggior parte di questi hanno grosse, anche quelle cose. No, praticamente sopravvivono con profumi, accessori. Cioè, tu dici: non posso permettermi un abito Chanel, però compro il profumo. Sì, o magari metto da parte un po' di soldi, mi compro un paio di scarpe, ma me le tengo per 10 anni. E anch'io faccio parte del mondo. Per quello i calzolai stanno rifiorendo, perché chi è che butta via più? Esatto. No, ma giustamente. Lia Celi, ciao, buona domenica. Ciao, buongiorno a voi. Lia Celi, mi incuriosiva perché lei ha scritto un libro, secondo me, molto divertente, Alieni a Rimini, come integrarsi fra i riminesi senza perdere la bussola. È bellissimo. Bello. Lia, perché tu non sei una riminese, ti sei trovata lì e hai detto: ma qui mi trattano come un'aliena, io sono in un mondo a sé. Come funziona, Lia? Ma guarda, il libro è nato per aiutare i tanti che vengono a abitare a Rimini. Dopo magari esserci stati in vacanza, poi fanno una conoscenza qui, insomma, quindi sa che un po' si sta bene, amori, oppure ci si viene per lavoro perché ti ci trasferisci la tua banca, così, oppure perché hai voglia di cambiare vita, vuoi andare a stare al mare. Però noi abbiamo io sono una mezza aliena, diciamo che sono, sì, così, insomma, una mezzo sangue. Come in Harry Potter, no? Non so. Hai dovuto integrarti anche tu, insomma, questa allora, è la verità. Integrare anche io e aiutare mio marito, che invece è proprio un alieno, nonostante fosse venuto tanti anni in vacanza, in questi riti particolari, perché Rimini è una città che ha il calendario ribaltato rispetto alle altre città, no? Qui praticamente vivi come agli antipodi, qui si lavora quando gli altri si divertono e viceversa, si viaggia sempre per tornare a casa nella corsia dell'autostrada più sgombra, perché noi, in pratica, per noi tornare a casa e tornare a Rimini, e quando i turisti se ne vanno noi ritorniamo, insomma. Non è facile adattarsi, infatti molti all'inizio trovano un senso di straniamento, no? Io ho deciso di scrivere questo libro perché con 14 rapide piccole lezioni, piccole finestrine sulla riminesità, che non è la riminesità felliniana, quella un po'... Ma come? a essere a Rimini è come essere in un film di Fellini, oppure si è sempre in vacanza, vero, quando vivi lì? No, ma guarda, queste sono alcune dei luoghi comuni che cerco di smascherare, perché lo stesso Fellini poi ha ricreato Rimini lontano da Rimini, e con Fellini i riminesi purtroppo non hanno ancora fatto completamente la pace. Questo è un po' un peccato, appunto, perché vengono i turisti fuori e pensano di vivere dentro a Marcord, mentre invece vedono una città tutta diversa, molto divertente, dove la qualità della vita e il piacere di vivere proprio al di sopra, perché è basato su piaceri molto semplici. Infatti la riminesità è una ricetta anticrisi, perché al di là del nostro amore per così se ne parlava prima, anche per l'oggetto firmato, la bella macchina, così le cose a cui siamo veramente attaccati sono la piada con lo squacquerone, ma anche poter noi, andare al mare quando ci pare e le tagliatelle. Quindi una volta che possiamo contare su questi tre piaceri, per noi la vita va sempre bene. Senti, tu hai fatto la cubista, immagino, vero? Prima? È un altro dei luoghi comuni che citi, sì, nel libro. Certo, per arrotondare durante l'estate. Chi è che non l'ha fatto? Guarda. Senti, cos'è una cosa? Perché abbiamo solo scusa, te lo posso dire. Io ho frequentato lo stesso liceo di Nicole Minetti, oggi frequentato da mia figlia, e il bidello indica agli adulti in visita, quello era il banco dove sedeva Nicole Minetti. Ah, va bene, metteremo anche la targa allora a questo punto. Ma certo, ci sono stati Fellini, Zavoli, Pascoli e Nicole Minetti. Finalmente. Perché siamo nel 2013, le cose cambiano. Ti do proprio 10 secondi. Dimmi una cosa negativa, una cosa che non riesci a sopportare di Rimini, che vorresti cambiare, se c'è. Guarda, a volte non mi piace, no, diciamo che una cosa che non posso sopportare e non sopportiamo in tanti è la viabilità veramente pazza, okay. Perché qua c'è un'assoluta anarchia fra tutti quelli che hanno una ruota, anche una ruota sola sotto il sedere. Cioè, quando appena cominci a pedalare col triciclo a 2 anni diventi un pericolo pubblico. Basta. Di esserlo a 90 anni. La risposta era questa, non posso darti più tempo, però ti ringrazio molto. Alieni a Rimini, Lia Celi, come integrarsi fra i riminesi senza perdere la bussola. Il riposo del guerriero. 11:06 minuti, ancora buona domenica da Stefano Gallarini, continua il riposo del guerriero. Oggi parliamo di moda e stile, saremo fra l'altro a Pitti e a Firenze dal 18 al 21 giugno, ospiti di The Bridge. Poi sul nostro sito radio24.it trovate tutte le informazioni. Sono con Stefano Sacchi e Andrea Balconi, autori di Moda Terapia, che è un libro che dà consigli, strategie, astuzie e tutto ciò che serve per stare bene nei propri panni, per essere più che unici, semplicemente se stessi. Sì, perché il concetto è che la moda bisogna un po' costruirsela. E poi adesso entreremo un po' nel dettaglio di questo libro. E leggo però prima un messaggio. No, gli anni 80, il periodo più elegante è quello degli anni 40. Mi hanno guardato con due facce. Sì, certo, Stefano, malissimo. Perché comunque alla fine, vabbè, allora anche 700, 600, non è che possiamo essere così... Con tutti quei pidocchi, ma, 700. Ma nel senso che non possiamo comunque essere così... preclusivi nei confronti degli ultimi decenni, perché allora a questo punto, se vogliamo fare un'analisi di stile, allora facciamola seriamente, partiamo dal 1800. Anche faremo una puntata sulla storia della moda, promesso, va bene, ok. Sì. Ci sono sicuramente. No, lo so, perché infatti... Sì, ma comunque negli anni 40 riconosco assolutamente che ci sono degli elementi importantissimi. Però non so quanto le donne fossero comode. No, certo. Ma infatti talvolta ci sono ancora oggi nelle collezioni, soprattutto femminili, dei dettagli che si rifanno a quell'epoca, sì. La lunghezza delle gonne, piuttosto che... Ma bisogna essere anche consci che in ogni decennio c'è sicuramente qualcosa da salvare. Mi rifaccio al vostro libro. Che senso ha comprare un abito costoso? Può avere un senso. Siamo spesso, lo diciamo anche nel libro, per la logica del compriamo meno ma compriamo meglio, e a volte il comprare meglio, non sempre, è un po' più costoso, e spesso significa anche materiali di qualità migliore, lavorazioni migliori, e quindi a volte è giusto anche fare un investimento spendendo un po' di più del solito, ma per una cosa duratura, che non sia una magliettina che paghiamo 4,50 euro da qualche parte. Ma cosa cambia? Ma cosa cambia? Beh, cambia innanzitutto appunto la resistenza dell'oggetto, e il fatto che magari dopo un lavaggio non si restringa o che non venga via una stampa, è un po', non è è solo un consiglio, ecco, non è un spesso per esperienza ci siamo trovati meglio magari a pagare qualcosa un po' di più come rendimento proprio dell'acquisto, ma possiamo dire la stessa cosa anche dei mobili piuttosto che delle materie prime con cui cuciniamo la sera la cena. Ma è vero che ci sono invece dei prodotti comunque costosi, anche di firme, che in realtà poi rendono da quel punto di vista come un prodotto invece da mercato, sì. Diciamo da mercato per capirci. Beh, spesso senza, si paga un po' la firma, nel senso che certi marchi hanno alle spalle una ricerca su vari fronti, dai tessuti allo stile eccetera, che ha un costo effettivamente. Ecco, quindi allora quando vendo spendere per abbigliamento, che cosa? Cioè quale tipo? Non so, puoi mi dirmi, per un uomo una giacca, sicuramente, non so, faccio un esempio. Per quanto mi riguarda poi è abbastanza soggettiva la cosa, io spendo volentieri per un buon paio di scarpe, per un trench per esempio, che li porto per anni e anche l'investimento monetario è ben distribuito, non sono uno che spende e spande, parlando sempre di me. Però su certe cose, sempre secondo il mio parere, la mia esperienza, non è male spenderci dei soldi. Stefano? Sì, gli accessori direi, perché comunque anche nel libro ne parliamo come forse gli unici elementi su cui vale la pena investire. Gli accessori rappresentano talvolta proprio una ricerca di vero stile, rimangono nel tempo, parliamo delle borse, delle scarpe, delle cinture o di certi tipi di gioielli che costituiscono proprio delle pietre miliari anche nel vintage, che è una tendenza di cui oggi si fa un larghissimo uso. Guarda cosa mi sono scritto con tanto di sottolineatura, vintage, perché ho una domanda per voi, e tra poco arriviamo. No, certo, quindi non voglio anticipartela, però sicuramente se tu vai alle fiere di vintage vedi che ci sono certi accessori, tra cui soprattutto le borse o i foulard di alcuni marchi che hanno subito degli svecchiamenti, che si sono rinnovati completamente, che diventano ormai veramente degli elementi di stile imprescindibili. E quindi a questo punto, secondo me, se si vuole spendere il proprio budget in maniera, come dice Andrea, migliore, forse la cosa migliore da farsi è che vada negli accessori, quindi nelle borse, nelle scarpe, che rimangono comunque abili nel poter rinnovare un qualsiasi look, anche il più basico, e quindi poi te le porti nel tempo. Antonio Mancinelli, ciao, buona domenica. Buona domenica a voi, come va? Bene, bene, caporedattore di Marie Claire, espertissimo di moda uomo, parliamo di moda uomo in questo momento. Sì, tu dov'è che spendi i soldi? Sì, devi, una vai. Cosa, quello che avevo detto prima, come no? Costo, sul lusso. C'è anche un discorso etico da fare, cioè se una maglietta costa 5 euro, noi stiamo cavalcando molto questa, come dire, questo impegno, non so come definirlo, chiediamoci un po'. Sì, hai ragione. Chiediamoci come è stata confezionata. Guarda, ad esempio, quanto carburante è stato, credimi, io portarla da certi luoghi nelle nostre boutique, per cui paradossalmente il lusso sta diventando anche ecologico. Guarda, giustamente diciamo gli autori del libro, dura molto. Antonio, io ne ho visto proprio recentemente in un mercato, in un posto, i jeans a un euro, e io ho detto un jeans un euro non può costare, è impossibile anche, cioè è proprio impossibile, anche solo il trasportarlo sul camioncino per metterlo in bancarella è impossibile, e per cui mi sono fatto proprio questa domanda. In Bangladesh, quindi sì, diciamo, certo, che il discorso diventa molto complesso. Insomma, però è interessante, quindi esatto, domandiamocelo. Certo che però quando hai a che fare con la quotidianità e devi comprarti una camicia, così, quando vedi una camicia, e io non solo io, insomma tanti la vedono, se entrate in un posto arrivano anche a costare 250 euro e invece riesci a comprarti una camicia con 15 euro, capisci che uno una domanda se la fa, insomma 250 euro francamente sono proprio tante. Poi ci sono anche le vie di mezzo. Comunque, ci sono le vie di mezzo, chiaro, sì, certo, però parlavo delle due cose perché questo ti fa capire quanto divario ci sia, quindi è anche difficile scegliere. Assolutamente. Allora, è molto difficile scegliere. Parliamo di moda uomo. Sì, no, beh, insomma, ma è interessante anche questo discorso. Tra l'altro ti applaudivano, sia Stefano sia Andrea non l'hanno fatto per non farsi sentire, però l'hanno mimato, per cui volevo dirtelo. Sono saluto Stefano e Andrea perché sono anche dei miei amici. Sì, immaginavo, infatti. È la nuova generazione di giornalisti. Si stanno dicendo, ma quel Mancinelli lì, sì, è lui. Allora, allora detto questo, allora, Antonio, appunto, come ci vestiremo? Ormai cosa andiamo? Non dico quest'estate, già quest'estate. quest'autunno. Immagino che voi siate lì già in autunno, inverno, giusto? No, siamo lì veramente per la prossima estate. Addirittura un anno prima, ma io me lo sono già dimenticato. Perché la moda uomo, visto che tu sarai al Pitti, sono molto felice. Purtroppo no. Al Pitti, come Radio 24. Sì, quella sì. Noi andremo a vedere l'estate 2014. E come sarà? L'estate 2015 per ora ancora non lo sappiamo, perché giustamente andiamo martedì. Sicuramente abbiamo già visto l'inverno a gennaio scorso, che devo dire proprio a linee molto generali ha riportato l'immagine di un uomo più che ben vestito, io dico vestito bene, ed è, c'è una sottile differenza, cioè c'è una grande cura nei particolari, c'è una grande cura nei dettagli, c'è un grande ritorno, non so, delle cravatte, dei papillon, di tutta una serie di che ho buttato via tutto. E potrebbero sembrare un po' antiquati o, come dire, appartenenti alla nostra memoria, mentre invece sono stati reinterpretati in maniera molto nuova e proprio in quest'ottica, cioè quasi di nuovi classici, no? Mi vengono in mente per esempio dei bellissimi cappotti, mi vengono in mente dei bellissimi trench, e se dovessi dire un capo che sicuramente mi comprerò, perché non ce l'ho e non l'ho ancora comprato mai finora in una vita lunghissima, la mantella per la pioggia, proprio quella dei cacciatori inglesi, che è stata riproposta da molti. Io quella canadese originale da una vita non l'ho mai messa, adesso sarà il caso che la tirerò fuori. Mi sei sempre superiore. Beh, come vedi. ciao Antonio. Però sì, c'è una certa tendenza tendistica all'elegante, alla cura di sé, che paradossalmente è sempre stata molto criticata dai colleghi americani, che hanno visto, sapete che l'America è un po' la padre dello sport, cioè del vestirsi sportivo, che hanno visto una certa leziosità europea. Invece secondo me significa anche riappropriarsi, e stavolta sono serio, di un'eredità che è anche culturale, che si esprime attraverso i vestiti, quindi la giacca ben fatta, l'abito a tre pezzi, no? Quello col gilet, quindi proprio un classico, però rivisto ovviamente dalle proporzioni e da dei colori che sono molto scuri. Il prossimo inverno saranno tutti grigi, tutti blu, dei toni molto, come dire, molto invernali e quasi, pensate un po' alla Scozia o non lo so, la Svezia, ecco, un po' tra Bergman e Sean Connery, ecco, siamo lì. Sean Connery nel senso di scozzese, non di certo, sei stato chiaro. Grazie Antonio Mancinelli, caporedattore di Marecchia, buona domenica. Il riposo del guerriero. Giulio scrive: odio i ragazzini che imitano i rapper americani, zero stile, zero fantasia, vero? Mi dicono di sì, qui accenna sì, Stefano. No, ma quella è una cosa mia personale, ho una avversione totale per tutto ciò che non capiamo e che copiamo. Il rap in primis, che nasce da esigenze e da caratteristiche di ribellione sociale tipiche di certi paesi, e che noi importiamo senza chiederci nulla, solo per il gusto di farlo. E quindi tutto, cioè queste tendenze che vengono importate per la nostra esterofilia, io francamente non le riesco a capire, a sopportare, come le magliette di Che Guevara che si mettono le persone che manco sanno chi è Che Guevara. Senti, sul vintage, questo, io tempo fa, qualche settimana fa, sono a Bardolino, entro in un negozio, mi aspetto di vedere un negozio di antiquariato e quindi non lo riconosco, non c'era fuori la scritta e l'insegna, e allora sono entrato e dico: ma qui vendete anche antiquariato? E la signora mi ha detto un po' malamente sì, e io ho detto: no, mi scusi, perché fuori ho visto solo abbigliamento, e mi ha aggredito dicendo: ma è vintage? Ecco, allora io non ho saputo, scusatemi, riconosce l'abbigliamento vintage, e mi sono messo su un tappetino prostrato dicendo: mi scusi, non ho riconosciuto l'abbigliamento. Quando veramente l'abbigliamento è vintage e si può definire così? Innanzitutto, perché ormai mi sembra che ormai tutto sia vintage, no, cioè, guarda, anch'io sono vintage. Ti parlo da figlio di antiquario, quale sì, sono? Oh, ecco. Diciamo che la strategia di inserire nei negozi di antiquariato il vintage è una strategia di comodo, purtroppo bisogna dirlo, perché l'antiquariato va come va, le case moderne non sono, cioè devono essere piccole, funzionali, costa tutto tantissimo, quindi l'antiquariato è diventato ed è rimasto una prerogativa di pochissimi. Quindi qual è la strategia migliore per poter sopravvivere? Inserire questa tendenza vintage, che è veramente interessante e che tutti stanno seguendo. Ma fino a che anno è vintage? Cioè anni 80 sei vintage. Bisogna fare molta attenzione tra il vintage e l'usato, che sono due cose, due concetti completamente diversi. Vintage rappresenta un insieme di icone stilistiche a cui fare riferimento, quindi capi iconici o comunque che hanno rappresentato delle tappe nella storia del costume. Parlo delle borse di Hermès, di Chanel, di queste cose carissime e che hanno un mercato tra i collezionisti. Beh, ma allora scusami, la stragrande maggioranza del vintage che vedo io non è vintage. No. È usato. No, è usato, o comunque si tratta talvolta di capi che appartengono a delle epoche, gli anni 70, gli anni 60, ben conservati, dove inevitabilmente una globalizzazione inferiore a quella di oggi, però aveva portato a copiare dai più importanti stilisti un certo tipo di stile, un certo tipo di dimensioni e di forme, per cui abbiamo degli esempi molto belli di anni 70, di anni 80 anche, non per forza appartenenti a queste griff così di altissimo livello. Però ecco, non bisogna confondere l'usato. Ecco, ma devono essere nuovi o possono anche essere usati? No, possono essere anche usati. Però devono essere un'icona. Certo, certo. Se no, no. Se no, assolutamente non no. Semplicemente perché l'ho trovato nel baule di mia mamma. E dico, vabbè, no, quello è il second hand e sono i charity shop di cui è piena l'Inghilterra. No, perché è pieno. Proprio, questa, la differenza è proprio lì, cioè riconoscere quando una cosa è veramente vintage. E sei stato molto chiaro e mi hai aperto un mondo. Che mi fa anche arrabbiare perché vedo tanto falso vintage, sì, no? In generale. Ma è anche il fatto di come è fatto un oggetto e del suo materiale, non per forza deve essere, come dire, di un noto marchio, eccetera. Viene riconosciuto anche vintage a volte un oggetto particolarmente ben fatto, non so, mi viene in mente un occhiale di celluloide di tartaruga magari senza marchio, però ha la sua qualità, la sua stile. Talvolta sono anche i materiali che si utilizzavano in un'epoca e che oggi non si utilizzano più. La bachelite, faccio un esempio. La bachelite. Va bene, grazie. Allora, no, per questo capitolo ce l'avevo lì da un po', meno male è venuto in testa. Quali sono le regole per un guardaroba perfetto? Cos'è che bisogna per forza? Beh, ce ne sono tante, posso dirne alcune, così come mi vengono in mente. E un guardaroba perfetto non è pieno di roba di ogni genere, ma è, come dire, ripulito ogni tanto, proprio dai capi, cose che non mettiamo più. È ordinato perché è più facile poi trovare le cose e rimetterle al posto giusto e soprattutto non contiene cose che non mettiamo più da troppo tempo, perché se non le mettiamo più probabilmente un motivo ci sarà. C'è un motivo, sì, o perché non ci va più bene banalmente, oppure perché non rappresentano più noi. Esatto, non riteniamo più adeguato a rappresentarci, perché insomma quando vediamo una persona, giustamente prima la vediamo e poi la conosciamo, quindi... È vero, non lo butto via perché tanto prima o poi torna di moda? È vero, ma bisogna avere degli armadi a 12 anni. In effetti, chi trattiene effettivamente prima o poi riutilizza. È vero che... cambia, cioè è un riutilizzo, non è la stessa cosa. Cioè, il pantalone a zampa d'elefanta che vedo oggi non è lo stesso c'era negli anni 70. Va riattualizzato sicuramente. La riattualizzazione bisogna assolutamente farla da un punto di vista anche sartoriale. Però effettivamente... poi c'è un fattore anagrafico che bisogna anche di cui bisogna tenere conto, perché non è che uno può vestirsi come un ragazzino forever, no, io sono per ci sono stagioni nella vita e bisogna inevitabilmente considerare. Io concordo, assolutamente, tante cose mi fanno proprio ridere, e quindi vabbè, quindi è vero questo. Stefano Sacchi, Andrea Balconi, Moda Terapia, esiste un look vincente, il tuo, perché loro, insomma, alla fine dite, il look, cercate voi di trovare qualcosa che vi appartenga senza seguire le mode. Fondamentalmente sì, partiamo dal concetto che la moda non deve essere qualcosa che si subisce anche psicologicamente, nel senso che a volte siamo vestiti... difficile perché siamo martellati. Sì, però è anche vero che a volte siamo vestiti bene, abbiamo il vestito giusto per l'occasione, ma non ci sentiamo a nostro agio, proprio perché non è qualcosa che fa per noi quello che indossiamo, benché possa avere tutte le caratteristiche per cadere a pennello in quella situazione, in quella circostanza. Per cui il titolo Terapia, non solo perché può far bene sapersi vestire adeguatamente, sempre a noi stessi e magari alla circostanza in cui indossiamo un abito, ma anche perché spesso la moda è qualcosa che subiamo nel senso che ci mette a disagio, magari ci occupa delle mezz'ore alla mattina per capire o per pensare cosa metto, con cosa lo metto, cosa mi diranno, piacerà, non piacerà, che figura farò con sta cosa addosso. Per cui cerchiamo un po' di fare piazza pulita da certi pensieri e appunto sottolineando come fondamentalmente bisogna stare bene con quello che ci si mette addosso, al di là poi che ci stia bene veramente o sia adeguatissimo alla circostanza. Certo, ci sono situazioni dove un certo tipo di abbigliamento è consigliato, altre dove invece ne è preferibile un altro. Ci sono anche delle regole da seguire per vestirsi bene, tra virgolette. Non vogliamo imporre niente, nemmeno noi alla fine, almeno parlo di me stesso, sono così sciolto nella questione, però averla razionalizzata in qualche modo innanzitutto mi ha dato una mano, e poi insomma ci siamo resi conto che effettivamente dei consigli molto generali si possono dare e sono buoni da seguire. Allora, moda terapia, è una moda insomma per stare bene anche, davvero, grazie. O per non star male. È vero, grazie Stefano Sacchi, grazie Andrea Balconi, Salani Editori, e a questo punto c'è la nostra Francesca Dragotto che ha da dire qualcosa proprio a riguardo della parola moda. Senti chi parla. Prego? No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche scrivai con Befalina, come antifurto, per esempio. Abbiamo iniziato con la supercazzola per dare il benvenuto alla nostra Francesca Dragotto. Ciao, buona domenica. Buongiorno, ben trovati. La nostra glottologa, infatti, è andata a ripescare questo momento, insomma, famosissimo di Amici Miei, per raccontarci che cosa? Dobbiamo parlare, vogliamo parlare di moda, e quindi ho pensato a una moda che è riuscita a sopravvivere anche al momento stesso in cui è stata forgiata. La fama, la fortuna, il successo della supercazzola o supercazzola, come sembra fosse nel copione, è stata tale da riuscire a superare anche il decennio successivo. Capitava, io ricordo in quegli anni ero alle scuole medie e i miei compagni di classe, già fan del film, che poi appunto è diventato un film di culto, si sfidavano a intercalare i propri discorsi anche durante le interrogazioni con parole quali supercazzola o Antani. Soprattutto Antani, che è un altro dei tormentoni di quel film, ha fatto moda, che è parola di provenienza latina, ma che noi abbiamo recuperato per il tramite del francese, che ha a che fare con la foggia, la maniera, il modo, e quindi ciascuno di noi ha una moda. Ecco Francesca, ma quali sono gli elementi che costruiscono una moda linguistica? Gli elementi in parte ricalcano quelli che costituiscono una moda di qualsivoglia genere. Di sicuro serve un elemento, un epicentro, un innovatore che lanci il nuovo modo, la nuova forgia, ma poi ciò che trasforma quello che può essere un vezzo individuale in una moda è la ripresa da parte della massa. Ecco, supercazzola lo ritroviamo nel dizionario o comunque non verrà mai inserito? Beh, dipende da quale dizionario. Di sicuro fa parte del dizionario italiano, se intendiamo, come facciamo ad esempio in sociolinguistica, con dizionario tutto l'insieme delle forme che si usa all'interno di una comunità linguistica. È chiaro che probabilmente non lo ritroveremo mai nel dizionario che riflette l'italiano standard e che di per sé tende a espungere tutto ciò che fa parte dei registri più bassi, dei registri informali. Nei dizionari più aperti, più attenti all'uso, è possibile che lo si ritrovi. Ecco, e quando invece una parola di moda rischia di diventare un tormentone e quindi di perdere la sua efficacia? Certo, questo è un po' il bello e il brutto del gioco, perché da una parte appunto l'innovazione per diventare moda deve essere ripresa, però la ripresa rischia di svilire, sbiadire, rendere logoro il termine stesso. Del resto accade anche con i vestiti. Il passaggio tra la griffa e poi il vestito che si trova nel negozio, in qualche modo nel negozio insomma anche a prezzo molto basso, comunque la ripresa da una parte esalta e sancisce la il validità successo, del sì. modello, e dall'altra però finisce per in qualche modo degradarlo. Grazie Francesca Dragotto, vi ricordo tutopoli.com, la nostra glottologa, la ritroviamo tanto domenica prossima, ciao! Grazie, buona domenica! Giochi e videogiochi. Non ho idea i giochi da tavolo quanto abbiano preso in prestito dal mondo della moda, ma credo non tanto. Andrea Rigabue, ciao, buona domenica. Ciao Stefano e buona domenica a tutti. Sì, come dici tu, il tema della moda non ha molto successo nel mondo del gioco da tavolo. Che io conosca, negli ultimi anni l'unico titolo che faceva proprio leva su un'ambientazione del mondo della moda si chiama Prêt-à-porter ed è stato prodotto da un autore cecoslovacco e da un autore polacco, da una ditta polacca molto, molto bravi. Il gioco è effettivamente molto bello, i giocatori sono degli impresari che devono gestire la loro azienda di moda, costruire i modelli e preparare le sfilate. Nel corso dell'anno ci sono quattro, diciamo, round di sfilata e chi meglio si comporta e fa più soldi vince la partita. Il gioco è interessante perché era nato come progetto finanziato dalla banca polacca rivolto ai ragazzi delle scuole superiori per insegnare loro in maniera divertente a fare impresa, cioè quindi cosa comporta fare impresa, quali sono i rischi, di cosa bisogna tener conto. Ecco, curioso che non sia stato pensato in Italia o magari da un team di milanesi, niente da fare. Vabbè. No, esatto, il gioco però è molto bello, io spero che prima o poi arriverà anche un'edizione italiana di questo gioco. L'attendiamo. Invece la moda entra in maniera evidente nei giochi, nel senso che anche il mondo del gioco da tavolo, come tutti i mondi diciamo artistici o comunque legati agli aspetti creativi, sente e ha effetto della moda, cioè sia di quello che succede all'esterno ma anche proprio di mode interne che si sviluppano all'interno del settore. Ad esempio, quando anni fa ha vinto lo Spiel des Jahres Dominion presentando una nuova meccanica ludica che è quella in pratica del draft, un sacco di giochi nell'anno successivo hanno preso in eredità questa meccanica e si sono presentati con questa meccanica. Oppure mi ricordo, se riesci a spiegare brevemente cos'è la meccanica del draft, perché è un termine abbastanza noto, perché viene dal mondo di Magic. In pratica i giocatori hanno un mazzo di carte che è il loro mazzo di gioco e che costruiscono durante la partita. Nel loro turno ne pescano 5, devono utilizzare quelle carte lì e poi a fine turno ne pescano altre sempre dal loro stesso mazzo, che man mano nel corso della partita arricchiscono con nuove carte. Quindi a seconda di come uno si costruisce il suo mazzo nel corso della partita può o non può fare determinate azioni. Certo, quindi cambia completamente la strategia che deve essere rivolta a cercare di vincere la partita. Altre mode invece? Altre mode, ad esempio, ricordo diversi anni fa ad Essen sembrava che fosse l'anno dei pirati, cioè sono usciti tantissimi giochi a tema pirate, insomma era strano, però nello stesso anno sono usciti davvero diversi titoli importanti. Ricordo invece che un paio d'anni fa è andato di moda il vino, cioè dopo che per tanti anni non uscivano titoli che avessero il vino come argomento, invece sono uscite 3, 4, 5 giochi di qualità a tema vino. Oppure, diciamo, altre mode possono identificare la tipologia di giochi. Ad esempio, tanti anni fa, una decina d'anni fa, fino a 10-12 anni fa, i dadi non andavano di moda nei giochi, quelli che noi chiamiamo da tavola alla tedesca. Cioè avere un dado dentro un gioco sembrava voler dire fare un gioco in cui contava la fortuna. Sì. E invece negli ultimi anni i dadi sono ritornati molto di moda, utilizzati proprio nei giochi in maniera spesso originale, differente. Sì, anche perché non è detto che debbano avere 6 facce, possono averne 8, 12 e quant'altro. Esatto. Ecco, cos'è di moda quest'anno, se c'è qualcosa? Una moda molto forte tra i giocatori adesso è legata a Kickstarter, cioè sembra che tutti debbano produrre dei giochi utilizzando Kickstarter, che è questo sistema di crowdfunding americano, e quindi sono tantissimi progetti che vengono presentati su Kickstarter. È una moda secondo me neanche troppo sana per il settore, perché in pratica si va a saltare il passaggio dell'editore, quindi è l'autore stesso che presenta il suo gioco e i giocatori, quindi l'acquirente, che lo pubblicano senza passare per un vero comparto editoriale. Certo, che invece tante volte è importante, però è figlia del suo tempo, ovviamente. Grazie Andrea Rigabue, ludologo.com è il sito. Buona domenica, ciao. Buona domenica Stefano e buona domenica a tutti. Il riposo del guerriero. continuiamo a parlare di videogiochi. Prima di sentire Emilio Cozzi, che saluto. Ciao Emilio, buona domenica. Buona domenica a te Stefano, a tutti i radioascoltatori. Volevo leggere un messaggio che riguarda, appunto, abbiamo parlato di moda, stile, stiamo continuando a farlo, di Viviana, mi fa molto ridere, dice: con l'aumento dell'IVA la collezione 2014 sarà costellata di mutande, ovviamente, perché sarà la cosa che ci troveremo addosso. Allora Emilio, quando si parla di videogiochi di stile, molte sono le cose che si possono raccontare, dai videogiochi vintage, come per esempio i Laserdisc, Dragon's Lair, esatto, uno per tutti, esatto. Non entriamo nel dettaglio di che cos'è, insomma lo racconteremo, chi lo sa, magari in futuro lo racconteremo, anche perché, come dici tu, le cose da dire sono moltissime, tanto che se la moda è fenomeno partecipativo e condiviso, come dire, questo tipo di mezzi di comunicazione, il videogioco si presta tantissimo a quella che viene chiamata convergenza culturale, tanto che c'è un libro molto recente che io consiglio, si intitola Fashion Games, è curato da Antonella Mascio, che affronta proprio, come dire, i tanti aspetti della moda nei videogiochi. Si passa da come l'ambiente sintetico possa influenzare il vestiario del proprio Avatar, che è un fenomeno estremamente curioso di proiezione. Ecco, ci raccontiamo, digitale. L'avatar, esatto, è il personaggio che vi rappresenta nel videogioco e che dovete abbigliare in qualche modo, e quindi, esatto, lo potete abbigliare come voi vorreste essere oppure come siete davvero, ecco. Oppure come voi non vorreste essere. Oppure anche come non vorreste, vero? Sì. Oppure si va proprio a un genere specifico, quello di dress up games, laddove appunto lo scopo del gioco, come giochi analogici di qualche anno fa, è vestire un personaggio e magari organizzare una sfilata, come proprio tematica principale, sì, del videogioco. Detto questo, poi, come dire, lo stile nei videogiochi, come stavi dicendo tu, può essere preso anche da un altro punto di vista. L'anno scorso addirittura una mostra allo Smithsonian Institution fu dedicata ai giochi nella storia, e lì se ne videro di tutti i colori, da appunto Dragon Slayer, come dici tu, i laser game, quelli disegnati, i cartoni animati, a giochi come Limbo, che è un gioco indipendente danese, quasi espressionistico dal punto di vista dello stile grafico, quindi ce n'è una varietà immensa. Io, visto che questa varietà appunto è gigantesca, mi limiterei a qualche gioco dell'ultima E3, la fiera che si è conclusa proprio pochi giorni fa a Los Angeles. Vai con i titoli velocemente perché abbiamo un minutino. Allora, tre titoli sono indipendenti, laddove appunto lo stile impera e domina. Ne consiglio al volo uno di Noriko Unemura, che è già famoso, diciamo, Rain, un gioco su un bambino invisibile che nella pioggia diventa visibile, malinconia veramente eccezionale. Un altro è The Witness di Jonathan Blow. Jonathan Blow è una superstar dell'indie game, fece già un gioco Braid che fece scalpore, e qui pare che ne farà ancora di più, un gioco coloratissimo su un'isola strepitosa dove siete solo voi e non vi rovino dicendovi altro. E ultimo gioco, Bluepoint Universe, uscirà per Nintendo, addirittura uno shooter a scorrimento laterale che pare disegnato a mano, una cosa eccezionale. E qui mi fermo perché siamo veramente, secondo me, ad altissimo livello. Ecco, la cosa incredibile ancora una volta che quando si parla di stile, le cose migliori arrivano dall'indipendente, no? Cioè, quindi è questo però un argomento che poi toccheremo magari in un'altra puntata. L'argomento mi trova assolutamente partecipe d'accordo, l'ho scritto anche stamattina. Purtroppo, per fortuna, è esattamente così. Grazie Emilio Cozzi, buona domenica. A voi, buona domenica. Le suggestioni del gastronauta. Visto che abbiamo parlato di stile, di moda sicuramente ci sono i talent sugli chef. Ciao Davide Paolini, buongiorno, buona domenica. Buongiorno. Oggi vi parlerò di suggestioni dove andare per gustare, perché credo che in questo periodo ci sono veramente dei posti straordinari dove si possa vedere dei paesaggi incredibili e si possono mangiare delle cose straordinarie. Uno di questi è Cravanzana, in Alta Langa, dove è in corso Nocciolando, dove sono in questo momento, dove chi volesse assaggiare delle torte a base di nocciola o della crema di nocciola o dei baci di dama o tantissime altre cose tutte a base di nocciola, sicuramente Cravanzana in Alta Langa è il posto giusto. Appunto, chiama la nocciola, anche gelati, tutti gelati locali fatti a base di nocciola, e poi si possono comprare ovviamente anche le nocciole. Poi devo dire che c'è un paesaggio di noccioletti che è una cosa straordinaria, su 800 ettari del comune 700 sono a noccioleto, e pensate che il comune fa 400 abitanti, tutti dediti alle nocciole, quindi un'Italia veramente tutta da scoprire, così come sarà da scoprire dal 28 al primo luglio in Friuli, San Daniele, il nome già quando si dice San Daniele, porta al prosciutto. Ebbene, c'è aria di festa in quei giorni a San Daniele, tutto basato appunto sul prosciutto, su questo prosciutto straordinario, questo prosciutto DOP, diciamo conosciuto in tutto il mondo. Durante questi giorni si possono visitare dei prosciuttifici, così magari ci si rende anche conto e si gusta direttamente il prosciutto, come viene prodotto e appunto le regole che diciamo disciplinano la produzione di questo prosciutto DOP, si possono soprattutto degustare, quindi farsi seguire nella degustazione e capire quando è un prosciutto eccellente, quando è meno eccellente. Quindi diciamo che chi ama appunto questo tipo di salume in quei quattro giorni, che poi sono contornati anche da spettacoli e da tanti corsi, e poi ovviamente siamo in Friuli e il vino è anche il vino da accompagnare al prosciutto. E un'ultima suggestione ve la do per un ristorante di Milano, dove c'è un giovanissimo chef, secondo me un ragazzo che brucerà le tappe. Si chiama Fagionato, Gabriele Fagionato, il ristorante si chiama Amaltea. Ebbene, è una cucina diversa, una cucina molto basata su profumi e sapori abbastanza inconsueti, direi etnici, però su una tradizione italiana, quindi qualcosa di molto molto particolare. Ad esempio un minestrone diciamo fatto cuocendo tutte le verdure ad una in maniera diversa per dargli appunto delle cotture diverse, ma dentro con un mix, un qualcosa che arriva dalla Thailandia, però rimanendo appunto sulla diciamo tradizione del minestrone. Oppure anche un pesce come l'ala lunga, ecco, c'è in questo ristorante anche una cura di pesci dimenticati attraverso una cooperativa di pescatori che arriva da Genova. Io ho mangiato un'ala lunga con dei pomodori confit, anche qui un altro sapore diciamo interessante. Poi un dolce che sono appunto le pesche passate in padella e con un fondo di liquirizia, e devo dire appunto si gustano delle tradizioni italiane mescolate con prodotti appunto che arrivano da lontano, e questa in fondo la contaminazione, e questa in realtà è il vero segreto della cucina, che non si può fermare, quindi tutta più possono avvenire delle contaminazioni, però rispettando la tecnica diciamo e lo stile, con anche dei sapori che arrivano da molto molto lontano. Lo ripeto, Amaltea in quel di Milano. Ecco, tra l'altro di questo si parlava proprio oggi anche per quanto riguarda la moda, e funziona esattamente nello stesso tipo, sia le contaminazioni, ma poi non bisogna dimenticare lo stile. Grazie, ma Davide Pollini. Scusa. Se mi permetti, la cucina è una storia di contaminazioni, perché anche molti tradizionalisti che gridano aiuto quando vedono queste contaminazioni non si rendono conto che la famosa dieta mediterranea, o mangiare mediterraneo, arriva dalle tre caravelle che sono arrivate dalle Americhe, perché lì dentro c'erano tutti i prodotti che noi non avevamo in Europa e sono arrivati dalle Americhe. Quindi contaminazione inizia già con la scoperta dell'America. Grazie Davide Pollini, al gastronauta, buona domenica. Prego. Ciao. Manè in 24 minuti. Palazzo Ducale a Venezia fino al 18 agosto, bellissima mostra, tra l'altro progettata con la collaborazione speciale del Musée d'Orsay di Parigi, per voi la possibilità dell'ingresso gratuito, ammesso che riusciate ad associare la canzone che sto per farvi ascoltare al titolo di un'opera di Manet. Il numero verde è 800 24 0024. Eccola qui questa bellissima traccia di George Michael, che ormai ha un po' di anni, sentito da Jesus to a Child. E Nicola da Torino, buona domenica, ciao Nicola. Ciao Stefano. Allora, questa canzone così può ricordare, anche se l'atmosfera del quadro è completamente diversa dalla canzone, una canzone dolcissima, e invece il quadro lo è un quadro piuttosto duro come immagine. Però ha a che fare con il titolo di questa canzone. Secondo te qual è l'opera di Manet al quale mi riferisco? Ecco, hai detto che il titolo della canzone è The Child. È Jesus to a Child. In realtà nel testo si racconta, dice: mi stai guardando come farebbe Gesù davanti a un bambino. Ecco, ma provo a dire... Lascio pensare, eh? O cercare su internet, non sento la tastiera però. Allora, ti ho detto, è un quadro, cioè l'ispirazione della canzone è una canzone molto dolce, parla d'amore, e in realtà qua invece in questo quadro c'è l'odio, direi, che c'è il sentimento opposto, perché rappresenta un momento duro, in particolare per il protagonista del quadro. Non posso dire chi sia il protagonista, però. Ma provo, guarda, con Cristo insultato dai soldati. E quello è, Nicola, esattamente quello. Bene, per te i biglietti. Grazie, grazie, buona domenica. Grazie Stefano, grazie. Ciao. Grazie, Maurizia, grazie a te. Maurizia da Milano. Pronto? Buongiorno. Ciao Maurizia, per te la canzone cambia. Puoi abbassare la radio, Maurizia? Sì, grazie. Grazie. Abbassa la radio, così mi senti anche meglio. Ma per te la canzone cambia, ma anche in questo caso il titolo del quadro sarà particolarmente facile. Ecco la canzone. Il carnevale fa babà, finisce male fa babà, e questa maschera ormai non serve più. Mi fai morire fa babà, di crepa cuore fa babà, e le mie lacrime son gloriando lì per te. Eccola qui, Caterina Caselli, Il carnevale si intitolava questa canzone. Maurizia, c'è un'opera di Manet che ha a che fare proprio con anche il testo di questa canzone. Il titolo. Mm. Sì, ma per me è proprio il carnevale. E non è il carnevale. Non è il carnevale. Casi sarebbe stato troppo semplice. Però insomma, non posso dire di più. Ma addirittura nel testo della canzone viene detto anche proprio il titolo del quadro. Però non è il carnevale. Grazie. Ho ciao. Sbagliato. Buongiorno. Grazie però, Maurizio. Roberto dalla provincia di Firenze. Salve, buongiorno. Ciao Roberto. Allora, secondo te, qual è il titolo di quest'opera di Manet che ha a che fare con questa canzone? Sì, nessun altro aiuto, giusto? No, ma anche perché il... Ciao, Roberto. Sì? È come se non avessi partecipato. Buona domenica. Grazie a Giulio De Luca, redazione, a Guido Scotti in assistenza, Cameo Lauricella in regia, scusate. Buona domenica da Stefano Gallarini. Sentiamo domenica prossima alle 10.